Che gara, Vale, che roba, che gara, che roba pazzesca. Tutti convocati weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Lorenzo che viene attaccato in quella. Oh, oddio, in due. Errorissimo. Grave errore di Andrea Iannone. No. Che falcia se stesso e falcia Jorge Lorenzo. Mannaggia. No. Ha fatto un vero e proprio capolavoro, raddrizzando un weekend non del tutto difficile, reso difficile da mille fattori. Rossi vince in Catalogna, Rossi c'è. Una gara bellissima, abbiamo lottato fino alla fine, fino a quasi cado da avanti, ma comunque Valentino ha fatto una grandissima gara, si la meritava, abbiamo fatto una bella battaglia per Luis. Dopo il Mugello ero veramente molto, molto triste perché mi ero apparecchiato tutto bene per fare una gran gara e per cercare di vincere davanti a tutta la gente, ed è stata una delusione cocente, però ho pensato che l'unica cosa che bisognava fare era cercare di rifarlo qua. Che rumba è a Barcellona, Carlo, che bel Gran Premio. Meraviglioso. Meraviglioso questo, ma secondo me fa il paio e si sposa perfettamente con la corsa del Mugello, sulla quale non abbiamo ancora, come ne abbiamo parlato anche venerdì, non abbiamo ancora dipanato tutti i dubbi del caso, però oggi facciamo festa. I grandi gialli del muro giallo. Perché continueremo a scavare bianco quello che è successo. Blu. Dietro il Mugello, sai qual è la battuta più bella che ho sentito in queste due ore dopo la fine del Gran Premio? Ne ho sentite tante. Che Iannone ha fatto la cosa giusta con sei mesi di ritardo. L'ho sentita anch'io. L'ho sentita anch'io diverse volte. Iannone abbastanza scheggia impazzita di questo moto mondiale. È un pilota molto forte, molto talentuoso, che non ha paura e soprattutto non ha un futuro certo. Si sente tagliato fuori dalla sua avanti così, neanche un presente, immagino, perché la Ducati dovrà anche porsi il problema di uno Giovanni, che va in questo giro non lo so, questo ad non abbattere lo so, tutti quelli che vede. Questo non lo so, però certamente è un pilota che in questo momento corre senza forse la necessaria coscienza, senza la necessaria tranquillità. 800 24 00 24, noi stiamo qui fino alle 19 in diretta per raccontarvi una domenica che ha regalato un'emozione immensa, e adesso ne parliamo. Valentino Rossi che riapre il mondiale, vince in Catalogna, poi è una domenica di passaggio perché stanno maturando ore decisive, minuti decisivi per la questione societaria dell'Inter che proprio in questi minuti sta diventando cinese, ore di passaggio per la nazionale, ore di passaggio per, passaggio tante, per tante altre, sì, ma cose. Poi abbiamo vissuto un weekend, come sappiamo, non banale, a partire dalla Catalogna per andare poi negli Stati Uniti, quindi ovviamente racconteremo delle ore di Valentino Rossi, delle ore del passaggio dell'Inter, però non possiamo far finta del fatto che due grandi personaggi dello sport, uno piccolo 24enne, un bimbo, forse non sarebbe mai diventato un campione, e l'altro probabilmente l'icona sportiva di sempre, nel giro di poche ore se ne sono andati da un'altra parte. Umberto Zappelloni, ciao direttore. Ciao, buon pomeriggio a tutti i vostri ascoltatori. Partiamo da Valentino. Allora, noi prima abbiamo scherzato su Iannone, però poi la notizia è che Iannone che abbatte Lorenzo, Valentino che fa quello che fa, quindi rimonta dall'ottavo al primo posto, tiene dietro Marquez, lo piega nel duello finale, poi diremo anche che cosa è successo dopo, ci consegna un mondiale riaperto. Due settimane fa, dopo il Mugello, noi stavamo raccontando di qualcosa di finito, sigillato. Sì, ma è lo stesso Valentino che giovedì nella conferenza pre-Gran Premio di Barcellona aveva detto che la situazione per lui era molto molto difficile, perché davanti ne aveva due, il distacco era importante, quei due comunque stavano andando come delle lippe, quindi era lui stesso. E poi dopo le qualifiche di ieri, quando la pista è cambiata, Valentino aveva fatto capire di non avercene per restare lì. Poi nella notte è successo qualcosa alla sua Yamaha, lui e il suo telemetrista, lui e i suoi tecnici ci hanno lavorato come dei matti e abbiamo visto che questa mattina dal warm up la Yamaha di Valentino sembrava un'altra. Lui ha fatto il miglior tempo anche se con gomme diverse questa mattina, e poi nel pomeriggio, pur con una partenza da dimenticare perché era ottavo dopo i primi metri, poi sesto alla fine del primo giro, poi però dal settimo giro in poi non ce n'è stata più per nessuno, e il duello finale, i quattro giri finali sono stati fantastici, perché contro quel ragazzino indiavolato di Marquez, Valentino gli ha risposto colpo su colpo e ha fatto un vero e proprio capolavoro. Sì, è tornato a dominarlo anche mentalmente, cosa sì, che negli ultimi mesi non era successo. Aspettiamo a dirlo, aspettiamo a dirlo. Oggi è successo così. Oggi è successo così, ma aspettiamo oggi, a dirlo. Oggi ha vinto duellando in pista alla grande contro una Honda che sembrava avercene di più quando lo inseguiva la Yamaha. La Marquez ci ha spiegato che anche il fatto che andassero contro vento nel rettilineo favoriva chi inseguiva, e quindi lui era riuscito a prendergli la scia. E poi però, secondo me, l'episodio chiave è la stretta di mano finale, di mano appena sceso dalla moto, quando Valentino ha allungato la mano a Marquez, perché il duello era stato così bello che era giusto... Non ci andrei giù duro con la stretta di mano. Mi fate sentire due protagonisti della stretta di mano del secolo? No dai, stiamo scherzando. Io sono andato a fare una breve ricerca su internet. Ne abbiamo di strette celebri, però questa tra Valentino Rossi e Marc Marquez va spiegata, raccontata e interpretata per bene. Intanto sentiamo i due protagonisti. E anche abbiamo shake the hand, non so come stretti la mano. Stretti la mano. Te l'aspettavi. Lo guardava perché abbiamo fatto una bella battaglia, ma dai, non sapeva, no? E dopo ho visto che mi ha guardato e abbiamo stretti la mano, che questo è anche importante per il motociclismo. La stretta di mano che ha sorpreso anche un po' Marc Marquez. Stanotte ho pensato che, visto che facciamo una cosa, no, dove dobbiamo essere tranquilli e concentrati, perché è una cosa bellissima ma è una cosa anche pericolosa, e penso che era la cosa giusta da fare. Allora, quanto dobbiamo credere anche a queste ultime parole di Valentino Rossi, che poi è il regista di quello che è successo? Cioè lui dice: guardate, andiamo talmente forte, facciamo una cosa talmente pericolosa che non si può farla facendo la guerra. No, si può farla facendo la guerra, però un fondo di verità c'è in quelle parole, secondo me. Dopo l'emozione è arrivata in pista per la morte del povero Salom. Sicuramente ieri tutti i piloti hanno pensato che veramente la loro vita è legata all'imprevisto, alla fatalità, magari a una via di fuga sbagliata, e che loro rischiano veramente tutte le domeniche e non soltanto tutti i weekend che vanno in pista, rischiano veramente grossa, e questo può aver portato Valentino a fare una riflessione. Poi la vittoria in quel modo lo ha sicuramente aiutato ad allungare quella mano. Però bisognerà capire, insomma, io ho assistito a tante strette di mano anche tra Prost e Senna, una famosa anche a Monza, poi però al primo sgarbo in pista si ricomincia con la battaglia. Però se la battaglia è come quella che abbiamo visto oggi, ben vengano altre battaglie così, perché oggi è stata entusiasmante ed è quella che vorremmo vedere sempre ad ogni Gran Premio di moto. Sì, però direttore, la ferita è aperta. Cioè, ieri pomeriggio eravamo qui a commentare la polemica di Rossi e Lorenzo, convinti ad esempio che la modifica del circuito dettata dopo i fatti di venerdì fosse in realtà un modo per favorire Marquez e la Honda. È inutile che ci giriamo intorno. Hai ragione, io ieri ho trovato molto brutte le dichiarazioni. Sgradevole, perché se tu non partecipi alla Safety Commission perché hai altro da fare, poi mi devi spiegare che cosa c'è di più importante della sicurezza, se poi appunto il fatto che un ragazzo sia morto in pista ti porta a pensare, a riflettere sul fatto che devi essere in pace con i tuoi avversari. Quello di ieri è stato un episodio, un Valentino da dimenticare, però va detto che è stato facile per Valentino oggi dare la mano dopo la vittoria. Sì, è stato molto facile. È stato molto facile. Ma infatti non starei. Io non lo so come verrà trattato domani sulla Gazzetta dello Sport, cioè sul tuo giornale, questo episodio della stretta di mano. Io non starei a sopravvalutarlo più di tanto. Secondo me ci sta, è una cosa che viene spontanea dopo che sei battuto alla grande contro un avversario. Però io credo che Valentino non dimenticherà mai quello che gli ha fatto Marquez l'anno scorso, fino a che magari non riuscirà a vincere il decimo mondiale. Allora forse si dimenticherà anche di quello, e o almeno gli peserà meno sullo stomaco. Per adesso un bel duello, soprattutto se tu lo vinci, ti porta ad allungare la mano al tuo avversario. È se anche Valentino avesse perso, non credo che quella mano sia. Certo che è giusto. È anche giusto che non dimentichi. Certo, e benzina anche sul fatto che Valentino Rossi sta facendo una stagione, io credo, al di sopra delle aspettative. Guarda, al di sopra delle aspettative. Perché lui era partito, mi sembrava non avesse il feeling con la moto, soprattutto in Argentina. Valentino non aveva mai dato, anche in Qatar, quinto in qualifica, solo quarto in gara, non aveva mai dato l'impressione di riuscire a esserci. Poi però traffico, piano piano dopo ha cambiato, e anche in qualifica Valentino è diventato diverso. Sì, però volevo dire, e lo dirò dopo il traffico, che forse adesso possiamo dire che sta facendo una stagione al di sopra delle aspettative dopo la gara di oggi. No, ma secondo me, però il tema è aperto. Il tema è aperto. Allora, c'è il traffico, io chiedo ancora un minuto di pazienza a Umberto Zappelloni. Poi voglio anche chiedervi cosa pensate di Iannone. Carlo l'ha detto, insomma, è davvero una mina vagante in questo mondiale. Traffico. Il finale di carriera è stato tosto, perché sapevo che con Marquez sarebbe stato difficile e ho avuto paura che mi battesse, però sapevo che in certi ho visto che in certi punti della pista ero un po' più veloce, quindi ho cercato di guidare bene e di andare così. Tutti convocati. Smao Research to Business ti aspetta a Bologna Fiere il 9-10 giugno. www.smao.it vi presenta. Tutti convocati. Purtroppo serve a poco, perché non serve a ridarcelo, no? Che è la cosa che vorremmo tutti, però penso che è l'unica cosa che possiamo fare per onorare Luis. L'unica cosa che possiamo fare è fare una gran gara e dedicarla a lui e alla sua famiglia. Questo Rossi a sigillare questo weekend comunque di lacrime, oltre che di polemiche e poi di euforia sportiva. Qualche messaggio che arriva 349-238-6666. Se volete mandare i vostri sms e i vostri whatsapp, oppure 800 24 00 24 per chiamare, prenotarvi, intervenire in diretta. Poi ve lo ricordo, dopo le 17:30 parleremo anche di calcio e soprattutto dei minuti decisivi, perché c'è l'Inter che sta cambiando mano, sta diventando cinese. Qualche messaggio: il punto è che Marquez resta un vigliacco simpatico finché corre solo per se stesso. Oppure c'è chi chiede se è possibile pensare male sull'uscita di Lorenzo. Non so a che cosa si riferisca, se c'è una volontà o meno di Iannone, non credo di andare a sbattere su Lorenzo. E quella era una battuta, quella che abbiamo fatto all'inizio, cioè che lo ha fatto con sei mesi di ritardo. Se è detta seriamente, a me sembra una sciocchezza. Poi, direttore, al di là che è una sciocchezza, questa. Ma no, ma lo fa talmente spesso, poverino, che insomma, non si può pensare che lo faccia povero Iannone. Sì, però è una mina vagante, rischia di essere una mina vagante nel mondiale, sì, perché rischia, poi diciamo la verità. Peccato, perché a Iannone piace molto, perché la grinta e la passione che ci mette sempre, però sta esagerando un po', sembra quasi che si occluda la vista a un certo momento, voglia fare il fenomeno a tutti i costi, aspettava un giro e Lorenzo lo passava. Ha sprecato una serie di podi per la Ducati quest'anno infinita con delle sciocchezze, perché non ha saputo aspettare l'attimo giusto, sta rischiando di rovinare la sua carriera. Lui è sicuramente un pilota promettente, ma se continua così rischia di veramente restare a piedi l'anno prossimo. Spero, perché è un pilota comunque molto veloce, che cominci a ragionare un attimo. Invece sul tema torniamo. Difficile, complicato, perché è anche una delle sue caratteristiche, cioè questo fuoco, questa grinta. È chiaro che non poteva essere confermata la Ducati in prospettiva Lorenzo, è altrettanto chiaro che in questa stagione, all'alba di questa stagione, gli è stato detto: tu non ci sei più. Ed è anche uno molto orgoglioso, Iannone. Sì, sicuramente quello che gli è stato comunicato dalla Ducati non lo ha aiutato, anzi, ha sicuramente esasperato la sua grinta in pista, senza dubbio. Per finire sul discorso stretta di mano, io credo che sia anche un modo con cui Valentino Rossi abbia voluto mettere una forte pressione su Marquez. Cioè, Rossi secondo me oggi dice: decido io che cosa fare anche del ricordo di quello che è successo l'anno scorso, e lo faccio nel momento migliore per me stesso, che è dopo una grande vittoria, che è dopo averti fatto vedere in pista che io sono ancora più forte. Sei così malizioso. Sei così malizioso. Io non mi rassegno all'idea che, per carità, sono state ore complicate nel circus della moto mondiale. Questa è una lettura, è una lettura estremamente maliziosa. Però, cioè, vinco, dammi la mano, tu che sei arrivato secondo e stai lì bravo. Comando io. Sull'altro gradino del podio, mi sembra una lettura molto maliziosa e che comunque chiaramente non chiude un duello, perché è chiaro che questa vittoria di Rossi, questo avvio di mondiale non chiude un duello. No, assolutamente, anzi questo duello riparte molto più forte adesso, perché adesso sono in 22 punti, ci sono tutti e tre, il duello è strettissimo, è appena passato un terzo di campionato e Valentino però ha segnato il territorio un'altra volta. Fino adesso si era ignorato con Marquez e adesso dopo che ha vinto, dopo che gli ha fatto vedere che lo ha saputo battere in pista, quasi dire, visto se l'anno scorso esatto, le cose fossero andate regolarmente, il campione ero io, tieni, ti do la mano, adesso fammi vedere quello che sai fare. Ha segnato il territorio. Sono ancora il Valentino che vuole il decimo mondiale, anche perché poi lui ha detto una frase importante, ha detto oggi ho sbloccato il primo 10, alla mia decima vittoria a Barcellona, il secondo 10 sappiamo tutti qual è, cioè lui ce l'ha ancora fisso lì in testa il decimo mondiale, che magari molti di noi quest'anno pensavano impossibile, però lui ci sta ancora pensando alla grandissima. Questo non c'è dubbio, grazie direttore. Altrimenti non farebbe più voi questo mestiere. No, però insomma, cioè, si ciao, può fare direttore, questo mestiere come lo faceva fino a 2 anni fa e magari accontentarsi anche di qualcosa di più. Parliamo di Ali. But the most popular USA winner was the lighthearted Cassius Marcellus Clay V. There's one hell of a lot of difference in fighting in the ring and going to war in Vietnam. My intention is to box to win a clean fight. But in war, the intention is to kill, kill, kill, kill, and continue killing innocent people. Catch me if you can. 9 seconds, 8 seconds, 7 seconds, 6 seconds. Ali, having scored with a left and a right, holding on. The fight is about to end and it is over. The winner by unanimous decision is Muhammad Ali. I was going to defeat that big indestructible George Foreman. I was going to rip him up. It's in my country. You want to see? Let me show you it's in my country. Ali Boumouye, Ali Boumouye, Ali Boumouye. Can you pitch 100,000? Can you pitch 100,000? Float like a butterfly, sting like a bee. Floats like a butterfly, stings like a bee. Coriandoli di Muhammad Ali, saluto Nino Benvenuti. Nino, buonasera. Sì, buonasera. Che ci riportano indietro nel tempo. No, nel tempo. Davvero. Mi sembra evidente soltanto una cosa. Non stiamo in questo caso parlando di sport. No, stiamo parlando di un'altra cosa. Qualcosa di più. Beh, di molto. Sì. Di enormemente più grande rispetto allo sport, Nino. Non lo so, io dico che lo sport è la cultura di tutti noi dovrebbe passare attraverso lo sport, perché tutti dovrebbero bravo, hai ragione. Immedesimarti in quello che è lo sport, perché lo sport fa parte del nostro composto fisico, fisiologico e mentale, e fa bene, abbiamo scoperto che a fare lo sport fa bene. Diciamo allora, che a scuola qualche libro di alto livello di sport o qualche film di alto livello di sport, so che viene fatto, però non in modo così frequente, a scuola bisognerebbe farlo, bisognerebbe proporlo. Io sono d'accordo e sarei pronto a promuovere questo pensiero. Nino, ma oggi esiste qualcuno come Ali, ma non come pugile, adesso poi l'analisi di Ali pugile è stata fatta, è stato un grandissimo, ma magari ne nascerà qualcun altro come lui, ma Ali è tanto, tante altre cose, unico ed è stato unico anche per mille altre cose. Io ho l'impressione che i grandi campioni di oggi, e ci sono in tutti gli sport, non potranno mai più essere totali simboli di tante altre cose come lo è stato Muhammad Ali. Guarda, ma è l'unico che viene in mente, Michael Jordan. Sono prodotti solo per dello sport, del marketing. No, non è vero. Non è vero. Per Michael Jordan non sono d'accordo. Poi è chiaro che non è stata un'icona dal punto di vista politico, mediatico, dal punto di vista sociologico come lo è stato per molti altri, però era chiaramente di un'altra epoca. Però se mi devi chiedere quale grande campione ha avuto lo stesso carisma di Muhammad Ali, a me vengono in mente Michael Jordan e Maradona, punto e stop. Beh, diciamo Michael Jordan e Maradona possono avvicinarsi, ma è una cosa diversa, perché quello che ha fatto Muhammad Ali da solo, perché poi non è che avesse attorno, come hanno questi di cui hai parlato, un team, una squadra che proponeva, presentava. Lui era da solo, lui le cose che diceva erano le sue in assoluto, lui parlava di se stesso, investiva se stesso, tutto il suo pensiero, tutta la sua anima. Era un personaggio come il quale non ci saranno mai più in nessun altro, non dico dello sport, ma in nessun'altra attività. È stato qualcosa di straordinario. Direi che quasi ha messo paura e non è stato utilizzato, non è stato proposto, non è stato sfruttato per come avrebbe potuto essere nella parte migliore di se stesso, naturalmente. Cosa che capita regolarmente a tanti grandi campioni, anche un po' scomodi. Scomodi, diventano scomodi quando vanno oltre a quello che è il pensiero dei più. Prima di chiudere di salutarti, c'è andato molto oltre il pensiero dei più. Stiamo parlando, guarda, di un periodo particolare. Questa notte ho rivisto quel film ben noto del processo che è stato fatto a Muhammad Ali, ma è una vicenda storica. Insomma, sappiamo bene come sia diventato una leggenda, non soltanto per i pugni, non soltanto per le vittorie, non soltanto perché è stato un grande campione sportivo, ma anche perché ha attraversato un'epoca particolare della storia dell'umanità. Un'epoca che è stata la nuova epoca, qualcosa di diverso, che è passato attraverso a tutto quello che era stato fatto prima, ma che non era la stessa cosa. Lui aveva fatto qualcosa di diverso, qualcosa di più importante. Aveva detto delle cose che non erano mai state dette prima. Certo. Ecco, certo. E che lui ha portato una ventata di novità. Ecco, certo, è stato qualcosa di straordinario. È un personaggio del quale veramente si potrebbero scrivere delle enciclopedie su di lui. Buona parte è stato fatto, in buona parte. Ma certamente, non è che sia stato trascurato, però devo dire che, parlando di Muhammad Ali, dico, è stato un grande, in assoluto. Non dobbiamo trovare delle minimizzazioni di nulla, perché Ali Clay è stato semplicemente il più grande, che poi è quello che in tanti nel momento della morte hanno ricordato e sottolineato. Grazie Nino. Ciao Nino, grazie Nino, benvenuti. C'è anche chi scrive: non ho mai amato la box, ma lì non va paragonato a nessuno, oppure non si può mettere a confronto con Maradona. C'è chi dice Karim Abdul-Jabbar, ad esempio, simile come profilo, non solo sportivo. Adesso però abbiamo la pubblicità. Sono d'accordo, ma tant'è. Ci fermiamo, poi apriamo la pagina sportiva e la apriremo con un contributo con l'ex amministratore delegato dell'Inter Paolillo, perché, lo ripetiamo, questi sono i minuti in cui l'Inter sta passando di mano, sta diventando cinese. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. tutti convocati. Dottor Paolillo, la stupisce, la sorprende che in queste ore l'Inter diventi cinese? No, anzi sono particolarmente contento e soddisfatto. Non mi sorprende perché era inevitabile che Tuchel vendesse, lo dimostrava il fatto che non investiva nulla nella società, che il suo progetto fosse in pratica un progetto fallito, un progetto mancato. Lo dimostrano i debiti sempre molto alti della società e il risultato sportivo, che era stato sempre abbastanza deludente. Quindi doveva essere costretto a vendere e ha venduto a mani buone. Ma ha perso o guadagnato con l'Inter? È una domanda che si fanno tanti tifosi. Secondo me ha chiuso alla pari e gli è andata ancora bene. Però se ha chiuso alla pari con un bilancio fallimentare anche come percentuale di ricavi, perché lui era entrato per sviluppare la società e invece il totale dei ricavi è drammaticamente sceso, è andata ancora bene. Ma è colpa sua o ho sottovalutato quella che sarebbe stata la realtà italiana, la realtà europea ad esempio con le norme vincolanti dell'UEFA? Guardi, le norme dell'UEFA sono vincolanti sulla parte sportiva, perché le norme dell'UEFA dicono che incrementando i ricavi si può fare di tutto. L'Inter per incrementare i ricavi ha fatto niente. Lei a febbraio disse che il voto per Tuchel era 4, oggi? Sì, è ancora 4, tant'è vero che è stato costretto a vendere, probabilmente se ne è reso conto anche lui. Anche se consegna l'Inter in mani solide, come ci ha detto prima? Ma è andata bene, ripeto, il voto è 4 perché poteva fare lui quello che faranno altri. Lui si è reso conto che non è riuscito a fare quello che doveva fare e indubbiamente adesso speriamo nei cinesi. I cinesi che tratteranno l'Inter giustamente come nella nuova filosofia del calcio mondiale come una multinazionale. Quindi sviluppo del calcio in Cina attraverso una branch italiana. Quindi se i tifosi si aspettano di aver pescato l'emiro come il Paris Saint-Germain, sbagliano, si illudono? No, perché ripeto, i cinesi sono molto bravi nel sviluppare i big data e i dati della società. Possono espandere questi dati con un mondo di tifosi che è enorme, non dimentichiamo la popolazione cinese, basta pescare e sviluppare il brand saggiamente e bene nel mondo cinese, si possono acquistare molti più tifosi e quindi molti più ricavi. Lei che conosce bene Moratti, sì. Ha questa idea che ci sia Moratti come regista occulto dietro l'operazione Suning, come gran consigliere, crede o no? No. No, non credo, perché se no non uscirebbe, se no resterebbe all'interno della società. E Moratti come esce da questa operazione? Molto bene, perché lui doveva cedere il 30%, Tuchel sembrava faticare ad acquistare questo 30% e a ripagarlo. Grazie all'arrivo di questi nuovi investitori Moratti riesce ad uscire e questo è un bene, perché nel calcio, come in ogni società, il socio di minoranza è sempre perdente, quindi conviene vendere tutto. Questo è Ernesto Paolillo, 800 24 00 24. Io adesso facciamo anche la cronaca di che cosa sta succedendo, però apro da adesso i telefoni perché voglio sapere cosa ne pensate voi, soprattutto tifosi dell'Inter, su questi 3 anni di Tuchel. Se sono stati un fallimento, lui è un furbacchione che è arrivato, non ha investito, prende, scappa con la cassa, adesso questo sto banalizzando, oppure se invece alla fine è stato un momento di passaggio necessario dopo il mecenatismo di Moratti. Pierluigi Pardo, ciao. Ciao Pier. Apriamo il dibattito, perché è un dibattito aperto? No, la seconda che hai detto, cioè è chiaro che nel momento nel quale non si hanno le risorse per poter andare avanti o per poter andare avanti in un certo modo e ci si apre al mercato, ci si apre anche alla possibilità che si diventi un oggetto di trading, e questo è quello che legittimamente Tuchel sta facendo, secondo me, in maniera quindi non molto... è uno scandalo che ci guadagni. Ma assolutamente no, scherzando. O che non ci perda, a seconda della versione. Ma non, proprio secondo me non esiste, non è un ragionamento che esiste. Aspettarsi da Doir un atteggiamento di attaccamento ai colori dell'Inter simile a quello di Moratti era impensabile, non aveva nessuna logica. E comunque sì, alla fine anche Moratti ha deciso di farsi della sua parte, quindi poi alla fine si potrebbe anche dire il contrario, no? Probabilmente non ha avuto le risorse per poter andare avanti da solo prima e per potersi ricomprare l'Inter dopo, come qualcuno romanticamente sognava. Tu stai dicendo sono solo affari, ma giustamente. Io sto dicendo di sì, è l'unica vera domanda che riguarda l'Inter, che riguarda il Milan, che riguarda la Roma, che ha già una proprietà che non è italiana, che riguarda il Bologna, è la bontà di quelli che arrivano da fuori. Cioè, non esistono, se mi passi il momento di cinismo, non esistono. Te lo passo finché vuoi, io sono cinico molto più di te. Appunto, cioè, voglio dire, ribadisco, Abramovic è arrivato a prendere il Chelsea e il Chelsea è decollato, che ho 15 anni, è un canale clamoroso. Ma poi io voglio domandare ai tifosi dell'Inter, ma abbiate pazienza, preferite il ritorno romantico di Moratti, le questioni di debiti, anni di difficoltà, di transizione, di... riparazione degli errori che sono stati fatti, o preferite una proprietà che arriva qui e si prende i giocatori che possono permettere, secondo me, in un paio d'anni all'Inter di tornare nel top europeo? Non so se il termine è un paio d'anni, però ripeto, è una questione filosofica. Non è filosofica, che sta spaccando il popolo dell'Inter. Aspetta che saluto economica. Marco Berinazzo, ciao Marco. Eccomi, buon pomeriggio a allora, tutti. Allora, prima della questione filosofica facciamo la cronaca, perché c'è noi lo diciamo dalle 17. Dai, Giovanni, fa bravo, non c'è più filosofia. È una questione filosofica sport, tra chi romanticamente preferiva Moratti, anche l'ultimo, quindi quello post triplete, anche senza risultati in campo, e chi invece preferisce una società che prova ad entrare nel futuro. Però facciamo la cronaca, Marco, perché, ripeto, sono ore e minuti decisivi. Guarda, ci sono questi incontri che si susseguono. L'ultimo sarà nella residenza privata del presidente di Suning, Zhang Jindong, e credo che quello sia il momento decisivo. Ormai tutto quello che doveva essere discusso è stato discusso e domani ci sarà la conferenza stampa a borse chiuse per annunciare dettagli, speriamo, di questo affare, che cambia assolutamente, insomma, le prospettive dell'Inter, se non nell'immediato, perlomeno in un arco temporale di 3-5 anni, insomma, lo pone in questo momento come il club che ha la proprietà più solida e più ricca in Italia. Sì, e questo è un salto nel futuro non da poco per i tifosi dell'Inter, che da qualche anno si stanno misurando, Pier, con la realtà di un club che ha grossi problemi economici, che qui abbiamo descritto come meglio non potevamo, e con una prospettiva a medio termine non necessariamente di sviluppo. Posso dirti una cosa, Marco Berinazzo? Allora, noi abbiamo un club in Italia che è proiettato nel futuro, o quantomeno nel presente, perché parlare di proiettato nel futuro è una stronzata. Abbiamo un unico club moderno, europeo, contemporaneo in Italia, che si chiama Juventus. Può essere che questo ingresso nell'Inter possa comportare il fatto di avere un altro club proiettato nel presente, e non dico futuro. Assolutamente concordo, quindi siamo sulla linea giusta, nel senso che il calcio italiano non è riuscito da solo ad autoriformarsi, non è riuscito ad agganciare determinati cambiamenti che stavano arrivando a livello globale, e l'unica possibilità che è rimasta è stata quella dell'ingresso di grandi capitali stranieri per colmare il gap con le big d'Europa. Abbiamo perso qualche anno perché chi è arrivato da Oltralpe non era evidentemente così munifico, così come ci è stato raccontato inizialmente. Viceversa, ora su Ning, insomma, tutti i presupposti sono diversi, e vedremo poi da qui a qualche settimana quello che accadrà dall'altra parte di Milano. Insomma, mi aspetto anche che ci sia qualcosa sul Milan, finalmente. Che la conclusione, sì, insomma, che la conclusione di questo affare sponda nerazzurra, insomma, acceleri quantomeno la definizione della questione Milan. Sì, siete sicuri? Qualcuno maliziosamente dice: oggi c'è stato, cioè in queste ore, in questi minuti, il primo turno delle elezioni. Fra maggio, due settimane, siete secondo, sicuri? Poi 80024 0024, numero verde. Lasciamo ci sospesa per questa domanda, ci fermiamo per il traffico. Poi ho anche un'altra cosa un po' maliziosa, Pier, da sottolineare. Traffico. Che non salta rossonero e... Tutti convocati. Tutti convocati. Non lo vedo che i cinesi comunisti mangiavano i bambini. È vero. È vero, perché hanno avuto una grande carestia, i bambini morivano perché le donne non avevano il latte, e allora per sfamare gli altri figli li facevano bollire e li mangiavano. E io devo dargli il Milan. E lui deve dargli il Milan. Tu sei uno stronzo, però. No. Tu, Giovanni Capano, sei uno cosa stronzo. Cosa deve fare? Deve dargli il Milan. I cinesi comunisti mangiavano i bambini. Cribbio. Giovanni Capuano. No, Pier, cosa adesso vediamo, cosa succede al Milan, poi lo chiediamo anche a Marco Bellinazzo. Mai mangiato bambini cinesi? No, No, ti manca. No, pur essendo stato... Mamma mia, che roba. A parte le battute, no, io penso, penso che i comunisti non mangiavano i bambini. No, e penso non, che i comunisti non mangiavano i bambini, no, neanche quelli cinesi, no. Questa è soltanto una battuta, e quindi non starei a perderci troppo tempo. Credo che Berlusconi, come diciamo ormai da giorni, sia sospeso fra ragione e sentimento. Sia sospeso tra sé e sé. Credo mi arrivano anche ulteriori conferme sul discorso dei 3 anni. Cioè, io credo che i 3 anni per lui siano veramente una data importante da mille punti di vista. Io credo che lui abbia dentro di sé mentalmente sia dato 3 anni ancora per continuare a fare delle cose in politica, nel calcio, e quindi questa possibilità di mantenere il controllo sulla società, però con dei capitali nuovi, è la cosa che ho sentito. Sì, ma posso oggi che è domenica, che c'è il rientro dal ponte, che c'è un tempo infame, posso... Dove c'è un tempo infame? Qua a Milano c'è un tempo infame. Sta per venire giù. Sì, l'universo mondo, io sono in moto, ma tanto mi porta a casa Capuano, non c'è problema. Fino vabbè, a adesso ti mando una foto così vi faccio rosicare un po'. Vabbè, prego. No, scusate, vabbè, siete tutti dei grandi amici. Da bastardo. No. Sì. Bastard time. Allora, mi piace molto la pioggia, veramente. Sì, anche a me quando non sono in moto. Quando la prendono gli altri è bellissima. Quando la prendono gli altri è meraviglioso. No, mi piace pure. No, posso dirti, va bene, si sia dato 3 anni per guidare ancora il Milan, si sia dato 3 anni per provare a riportarlo in alto. Il problema è che la sua famiglia darà a Berlusconi ancora 3 anni, o un giorno dirà a papà Silvio, 80enne, senti papà, questo è il grano, queste sono le proprietà, per favore mettiti da parte. Questo lo chiediamo a Marco. Marco? Beh, direi che è uno dei temi. Dai, stiamo parlando fuori dai denti. Sì, credo che difficilmente, insomma, i figli di Berlusconi arriveranno un giorno a dire questo. Quindi andiamo avanti. Quindi si va avanti così. E il Milan e Berlusconi, più della Fininvest, più di Mediaset, più di Mondadori, e quindi è il suo regno. Il problema è che le pretese di Berlusconi sulle modalità dell'uscita, come dire, non sono del tutto compatibili con l'esigenza che ha una cordata di imprenditori cinesi che vuole appunto cambiare. Deve avere le mani libere. Sono fuori mercato. Posso allora, chiederti, perché oggi scrivono, sono fuori mercato. Oggi in tanti scrivono che in realtà non c'è da stupirsi se salta tutto. Tu hai questa sensazione? Guarda, io ho sempre avuto, Giovanni, la sensazione che alla fine Berlusconi abbia davvero poca voglia di vendere, e che alla fine se venderà sarà costretto, diciamo, dalla bontà dell'offerta e da una situazione, diciamo, aziendale in senso ampio, che lo costringerà a vendere. Però ecco, credo che sarà proprio l'estrema razio per lui quello di cedere il Milan, perlomeno senza aver messo una sorta di imprimatur su questo passaggio. siano, diciamo, i 400 milioni da investire, che sia il suo ruolo da presidente onorario con alcune deleghe, questo bisognerà capirlo, insomma, credo che siano davvero poi gli ultimi aspetti su cui si sta discutendo, perché per il resto, insomma, più o meno le linee guida di questo accordo ci sono, insomma. Sì, poi la cosa che sorprende è che i cinesi che vogliono l'Inter sono arrivati, l'han presa. Bravo, esatto, con una quotazione. Esatto. Non so, poi vedremo. Domani esatto. Ore 9 dovrebbe esserci la conferenza stampa, magari capiremo anche quanto, cioè, è costata l'Inter. Qui si parla di affari, dall'altra parte si parla di ragione e sentimento e di soldi. E mi sembra ci sia una differenza essenziale tra le due realtà di Milano. Hai sentito Paolillo che ha detto: i cinesi, certo, tratteranno l'Inter come una multinazionale, non saranno gli emiri. Attenzione tifosi a non illudersi, cioè a patto, Marco, Pier, che nessuno si illuda. Grazie Marco. Ciao Marco. Grazie, ci vediamo presto. Grazie Marco Bellinazzo. Quindi questo è domani ore 9, dovrebbe esserci da Nanchino. Che succede? Chi c'è ancora? Pronto? Chi è? Salta. Chi non salta? Ah, avuto io. Rosso nero. Presidente, buongiorno, buonasera, anzi. Buonasera, Presidente. Buonasera. Roberto Mancini, sì? And the team of Inter is strong. Sì, ma non ci interessa questo oggi. Ah, sta vendendo. Dove è localizzato il presidente Toir? È Nanchino. Ci conferma che ha venduto tutto? Ci conferma che ha venduto tutto. Ci conferma? I want to see our fans in San Siro. Sì. We are important. Sì, ma ci conferma o no che hanno venduto? Ci conferma che ha venduto tutto o me ne vado? Ce ne andiamo io e Capuano? Cosa anche fa? Io. Conferma. Anche io. Conferma. Ce ne va anche Pardo? Conferma o no? Sì o no? Pardo is not important. Now grazie. Is important. Va bene, io me ne vado. Io me ne vado. Me ne vado ufficialmente. Aspetta, adesso ce lo dice. Genta is not important. Now is important not who buys and who sells him. Presidente, ma lei ha venduto character. O no? Sì, ma non il carattere. Problems are just imagination, is imaginary. Tu hai capito, know? Qualcosa, Pierre? Hai capito and qualcosa? The media, no, I the media understood like anything about io ho capito che il presidente Toir è contento perché, come dicono tanti tifosi dell'Inter, yes. Ha investito niente e porta a casa i soldi. Next year, sì. Inter can win Coppa Italia. Ma come la Coppa Italia? My compliments to Cagliari for return in Olli. Molto utile questo collegamento da Nanchino, grazie Presidente. Grazie. Maybe. In a league Trapani. Ma no. Grazie Presidente, arrivederci. Grazie Presidente da Nanchino. Pier, tu hai capito? No, non, ma tanto domani mattina sappiamo tutto. Oh, c'è il GR delle 18, ci fermiamo. Ci sono tanti che ci stanno chiamando sulla vendita dell'Inter. Dopo le 18 apriamo i telefoni. 800 24 00 24. Siamo qui, chiamate, prenotatevi. Poi parliamo anche di nazionale e di tanto altro. Torniamo subito. Tutti convocati. Il segnale orario vi è offerto da Vivacissima e Amissima, la nuova compagnia assicurativa con quasi 100 anni di storia. Sono Giovanni Minoli e vi aspetto tutti i giorni dal lunedì a venerdì, dalle 9 alle 10 e mezza con l'attualità su Mix 24 e Gialli della Storia, naturalmente su Radio 24. Ascoltaci anche in Digital Radio. Convocati 800 24 00 24. Allora dai, apriamo i telefoni. Pier, ci sei? Sì. Eccoci. Allora, Alessandro da Udine, Davide da Rimini, Roberto da Milano. Poi tra qualche istante forse vediamo anche il finale dal Roland Garros, dove Djokovic è abbastanza vicino a vincere il torneo di Parigi. Alessandro, dai, ciao, che, buonasera. Dai che li facciamo diventare buonasera. Matti tutti. Alessandro. Buonasera a tutti. Salve. Eccoci. Volevo domandare, al di là degli aspetti romantici, tutti plaudono all'arrivo di grandi capitali dall'estero perché si pensa che possano esserci grossi investimenti nel calcio, ma da quanto lo so io, insomma, il fair play finanziario è stato concepito proprio per fare in modo che una società di calcio si autosostenga con i propri ricavi, se quello che ho... che so è corretto. Sì, quindi... è così, anche se qualcosa sta cambiando, però prego Alessandro, poi stiamo poi parlando ti diciamo. Di teoria più che di pratica. Prego Alessandro. Ecco, esattamente questo che mi interesserebbe capire, se non dovrebbe esserci correlazione fra i capitali della società e i ricavi, nel senso se un presidente ha pure una potenza finanziaria molto, molto elevata, ma se il paese finanziario gli impedisce di impiegare questi soldi, non vedo come si possa. Guarda, te lo dico io, cerchiamo di banalizzare, ovviamente è tutto molto più complesso, Pierre, ma diciamo che da qualche mese la UEFA si è accorta che rischiava di ingessare tutto e allontanare investitori che volessero entrare nel calcio europeo. E allora poniamo il caso dell'Inter: nei prossimi mesi la nuova proprietà potrà andare all'UEFA, spiegare che le cose sono cambiate, fare con l'UEFA un piano di 2 anni, 3 anni, 4 anni, in cui magari uscirà di nuovo dai paletti, porterà un piano di investimenti e cercherà così di riattivare un volano positivo, cosa che Tohir, per essere chiari, nel 2013 non poteva fare, perché allora le regole erano quelle ingessate sì, di è una, oggi. È una situazione che in qualche questo modo per... ricorda l'austerity e di carattere di politica economica europea, no? Nel senso che c'è lo stesso tipo di dialettica fra un'applicazione molto rigorosa, molto rigida dei parametri, in quel caso deficit PIL, in questo caso semplicemente quelli del surplus finanziario, e chiaramente il tentativo di però non buttare via il bambino all'acqua sporca, cioè fare in modo che uno poi veramente per salvare i propri fondamentali economici però poi per non avere più la possibilità di fare calcio in un certo modo. Quindi da questo punto di vista è un passo avanti. Il problema, Pierluigi, quello che mi sono sempre domandato io è questo: allora, se arrivano gli arabi, se arriva Abramovic, se arrivano gli sceicchi e iniettano nel sistema calcio una grande quantità di denaro, a chi fa male questo? Cioè, perché questo non dovrebbe essere accolto? Io capisco, sto andando contro logiche sportive, però perché questo fa male? No, questo non fa male, questo non fa assolutamente. E allora? Questo non fa assolutamente male. Metà campionato inglese è in mani straniere. Il punto fondamentale, però, nel discorso di Inter Milan prima è che devi avere la fortuna e la possibilità di essere comprato da degli stranieri pieni di soldi e vogliosi di impegnarsi per un progetto a lungo termine. Questi sono i due elementi. Io credo che ha saputo, ad esempio, è chiaro che è difficile valutare le annate e le gestioni, ma ha saputo, sta portando tanto al Bologna. Cioè, assolutamente. Bologna, ma molto banalmente, secondo te, un tifoso medio si opporrebbe all'ingresso di capitali stranieri in grado di portare una grande quantità di denaro e quindi... grandi quantità di giocatori e grandi quantità di risorse? Ma assolutamente no, il tifoso vuole vincere, credo. Il tifoso vuole vincere. No, però c'è un sistema che sta cambiando perché ha capito che stava ingessando e stava allontanando questi grandi investitori, quindi sta cambiando qualcosa. Però i tifosi dell'Inter devono capire, guardate, noi lo diciamo che non arriva lo sceicco del Paris Saint-Germain e non arriva nemmeno il primo Abramovic. No, però arriva una potenza economica che può aiutare. Arriva un grande gruppo. Arriva a sentire Beninazzo, un gruppo, la società più potente e più forte d'Italia, secondo quello che ha detto Benignazzo prima. Poi se non sarà così prendetevela con il signor Benignazzo, però voglio dire, non arriva sicuramente, perché quel tempo lì mi sembra un tempo andato, quello di investimenti. Comunque in Italia non sono mai arrivati questi investimenti così un po' folli, no? Di gente che decide, si sapeva il primo Chelsea, anche il Manchester City, è come se avessero delle tabelle, delle quotazioni di mercato più alte del 20-30% rispetto agli altri club, hanno un altro mercato perché possono spendere cifre folli. Queste robe qui da noi non sono mai arrivate, però se arriva una società molto solida, molto forte, beh, insomma, l'Inter torna a essere competitiva come non è stata negli ultimi anni. Certo. A me sembra, sinceramente, a me da fuori mi sembra, con tutte le cautele del caso, una notizia grandiosa per l'Inter. Sì, da verificare, nel senso da verificare come si comporteranno, ma certamente non una cattiva notizia. Come tutte le cose della vita, però insomma, non mi sembra mi sembra un rilancio, sembra un rilancio. Davide da Rimini. Buongiorno, guarda, io volevo ritornare un po' sul paragone fra Michael Jordan e Muhammad Ali. Sì. Forse praticamente da sportivo ci può anche stare, da uomo penso che c'è un abisso, cioè Michael Jordan da sua gente gliene frega niente, cioè I suoi investimenti sono tutti nei carceri privati e non ho mai fatto niente, neanche una borsa di studio, niente. Cioè, LeBron fa 10 volte di più di lui. Vabbè, adesso io che se non Michael sono, Jordan non ha mai non fatto sono, non sono così d'accordo. Qualcosa allora, di sociale, ma, non lo so. Michael Jordan. No, vado a guardare. Io voglio paragonare uno sportivo. Sì. No, mi ascolti. Allora, Michael Jordan, ho letto molte biografie, ho letto molte cose, è uno dei miei idoli personali. È chiaro che è nato in un'epoca diversa rispetto a quella di Muhammad Ali. È chiaro che è stata una persona diversa rispetto a Muhammad Ali. Io sto parlando di carisma e di influenza che ha avuto comunque sulla cultura americana e mondiale. No, ma e in questo, io credo sia paragonabile a Muhammad Ali. Pier. Posso dire una cosa? Mentre tanto Pisa Foggia dopo un quarto d'ora sono 2-0 per il Pisa di Gattuso. Grazie. No, però voglio dire, una partita importantissima per venire in Serie B, 2-0 all'undicesimo, Mannini, e poi il raddoppio. No, io credo questo, che i giocatori, gli sportivi, innanzitutto debbano fare gli sportivi. Cioè, essenzialmente quello che io chiedo a Michael Jordan è di schiacciare il pallone, a Federer fare degli ace, a Vialli di segnare in rovesciata. Cioè, questo è quello che secondo me gli sportivi devono chiedere. Poi è chiaro che ci sono alcune figure che hanno per sensibilità, per carisma, per personalità, la capacità di utilizzare questo loro consenso, questa ma anche loro per epoca, Pier, per degli obiettivi anche per enormi. Epoca, anche ma per sono, epoca. Sì, però voglio dire, adesso Muhammad Ali certamente è una figura che è giusta, ne ha parlato anche il presidente degli Stati Uniti in queste ore, quindi non c'è alcun dubbio che sia stata una delle figure più inspirational, più straordinarie per la storia dell'umanità. Perché ha fatto delle battaglie per i diritti umani, perché ha fatto delle battaglie e ha fatto spesso anche delle battaglie scomode, perché nonostante la sua conversione al mondo musulmano, per esempio, sappiamo benissimo che lui si è speso in maniera molto precisa contro gli eccessi, no? contro gli eccessi terroristici e contro diciamo il radicalismo di una certa parte del mondo musulmano. Quindi stiamo parlando veramente di un uomo straordinario, illuminato, che ha contribuito al miglioramento del mondo. Detto questo, non è che se uno sportivo fa semplicemente Lo sportivo no? va almeno. Però qui stiamo parlando, insomma, ci sarà una ragione se oggi la morte di Muhammad Ali è su tutte le prime pagine non sportive del mondo, è perché ha rappresentato qualcosa di diverso. Chiedo un istante di pazienza a Roberto da Milano, con cui ripartiamo dopo il traffico, mentre Djokovic non riesce a chiudere la finale contro Murray, ma vi raccontiamo tutto dopo il traffico. Subito, pubblico caldo. Tutti convocati. Smau Research to Business ti aspetta a Bologna Fiere il 9-10 giugno. www.smau.it vi presenta. Tutti convocati. Djokovic che è al match point, 3-6, 6-1, 6-2, 5-4, vantaggio Djokovic che era però 5-2, due break di vantaggio, sta soffrendo Djokovic che chiude in questo momento e vince il torneo di Parigi, il Roland Garros. Dunque Djokovic che batte Murray in 4 set, 3-6, 6-1, 6-2, 6-4. Roberto da Milano. Buonasera, innanzitutto buonasera Giovanni Capuano e Carlo Gente, come vedete sempre la trasmissione. Sì. Volevo dire, comunque, siamo sicuri di questi capitali cinesi? Ad esempio, adesso leggevo i giornali che il presidente del Pavia lascia la società e prenderanno in mano dei imprenditori locali. Quindi anche il Milan dovrebbe stare attento. Sì, quindi, anche l'Inter, tutti quelli che attraggono dei capitali, Pier, devono stare attenti, perché poi la logica è quella che si investe per provare a guadagnare. È la stessa logica di Toir, che oggi tanti tifosi dell'Inter nel momento dell'uscita gli rinfacciano. Invece secondo me è la conferma che l'Inter e il calcio italiano vanno trattati come delle normalissime aziende. Io penso che chiaramente ai posteri largo sentenza, no? Ci mancherebbe altro, però io credo che Toir abbia fatto un buon lavoro, lo dico sinceramente, nel senso che ha traghettato, se tutto verrà confermato, ha traghettato questa società che era gestita in maniera essenzialmente patriarcale, familiare, con un amore infinito, perché Baratti è stato un presidente straordinario, no? Per amore, anche per investimenti, ma comunque con logiche, diciamo, la Prima Repubblica, l'ha certamente traghettata verso un universo molto più internazionale, molto più moderno. Possiamo dire un gran bel lavoro, Pierluigi, un gran bel lavoro ben remunerato, perché adesso Capuano ti dice quanto Toir ha prestato all'Inter e a quali tassi di interesse. No, quali tassi di interesse te lo dico io, verso il 9%. 9%. Esatto, quanti soldi? Siamo intorno ai 104 quindi milioni. Stiamo parlando di affari, stiamo parlando di affari, non di ragione e sentimento. Però, non è lì la presidenza Toir, però. Non è in quei 104 milioni che domani scopriremo, forse si spera, se poi faranno parte dell'accordo, resteranno dentro, resteranno fuori. Insomma, è credo un po' più delicato fare il bilancio di questi tre anni di Toir, di questi tre anni forse di passaggio tra Moratti, cioè tra il passato e vediamo che cosa sarà del futuro. Saluto Andrea Bodi intanto, presidente della Lega B. Presidente, buonasera. Ben trovati. Io non so cosa pensa lei sui cinesi, poi parliamo di cosa succede questa sera. Cinesi in generale. Sì, no, sui cinesi che investono nel mondo del calcio italiano. La cantonese, no? No. Grande mura. No, io mi tengo a una primavera, queste cose qui. Mi tengo a una certa distanza perché... le problematiche sono in effetti differenti, anche se posso dire che nell'incontro che ho fatto l'altro ieri con il presidente... Aspetti, presidente, che abbiamo un problema con la linea telefonica. Adesso meglio. Dicevo che mi tengo a una certa distanza per le differenze che ci sono. In ogni caso, la lunga chiacchierata con il presidente della Federazione Cinese l'altro ieri a Roma ha reso ancora più esplicita una strategia che mi sembra una strategia di carattere politico, industriale, e quindi comunque bisogna sapersi confrontare avendo un duplice obiettivo: da una parte certamente non chiudersi ad un'internazionalizzazione anche proprietaria di sostanza ragionevole, con tutte le cautele del caso, ma comunque certamente non ci si può chiudere; dall'altra utilizzare questo strumento per far fare un salto di qualità al nostro calcio, che ne ha bisogno, e magari grazie anche a questo confronto con il mercato globale, preservando alcuni presupposti, tutelando un minimo di identità, credo che questo possa essere un acceleratore di sviluppo del nostro fenomeno calcistico. Ci fa comodo, questi soldi ci servono, diciamo la verità, e che arrivino oggi forse rappresenta l'ultimo treno per agganciare gli altri. Gattuso sta vincendo 2-0 con il Pisa contro il Foggia, finale d'andata per andare in Serie B. Questa sera ci sono altri due allenatori, uno giovane che potrebbe magari in futuro essere un allenatore del Milan e un altro invece che ha fatto insomma un pezzo piccolo di storia del calcio italiano, che cominciano a giocare per la Serie A. Salirò fra le rose di questo giardino. C'è grande soddisfazione perché non è semplice a distanza di un anno ripetere una nuova finale, ma soprattutto non è semplice dopo aver praticamente ribaltato una squadra intera all'inizio del campionato. Preferirei stare seduto sopra il ciglio di un vulcano. L'eventuale risultato positivo sarebbe una cosa leggendaria, perché poi alla fine più di 100 anni di storia sarebbe la prima volta che Trapani va in Serie A. Dovesse andare male, rimarrebbe comunque un'annata che a livello emotivo sarebbe assolutamente identica, quindi non sarà il risultato di queste due partite a cambiarla, a muoverla. Prima o poi ripartirò. Ore 20:30 Pescara Trapani, ovvero Oddo contro Cosmi. Pier, io non so come la pensi tu, non so se hai preferenze, ma possiamo anche tenercele per noi. Non credo. No, le preferenze non ce l'ho. Conoscendo abbastanza Pardo, preferenze non credo. No, perché sono due bellissime trasferte, quindi veramente siamo messi benissimo in tutti e due i casi. E sono due amici, due allenatori di generazioni diverse, ma insomma entrambi molto, molto interessanti. Oddo chiaramente potrebbe avere davanti a sé, diciamo, il DNA del predestinato, nel senso che è molto giovane. Se dovesse centrare questa proporzione, anche per la qualità del gioco che sta mettendo in evidenza, e per diciamo la statura del personaggio in campo e fuori, no? Anche una certa intelligenza, un certo stile, un certo physique du role, per dire alla Galliani, beh, insomma, è uno che potrebbe. Sì, però, non possiamo dire anche che Serse, dopo tanti dopo tanti mari perigliosi, dopo tante traversie, eccetera, alla fine aver portato il Trapani a questo livello è una grande rivincita. Assolutamente, ma infatti stavo appunto dicendo che poi dall'altra parte invece c'è Serse, che ne ha vissute 1000, forse 2000, forse 3000, e che si sta rilanciando alla Serse Cosmi, cioè con quelle caratteristiche di carattere, di adrenalina, di mentalità, che sono diventate materiale per Crozza e non solo, ma che rappresentano un tratto bellissimo, secondo me, di questa persona, prima ancora che di questo allenatore. Per cui dice una piccola bugia sull'aspetto intanto finale sport, vi faccio sì. La ricorda che è in diretta 2-1. Dice una piccola bugia quando racconta che non cambierà l'aspetto emotivo della stagione. No, cambia. Il fatto è che giovedì, dopo la gara di ritorno, presidente Abodi, la B ci consegna comunque una sorpresa. Buona faccia di tanti discorsi fatti anche in maniera impropria nei mesi scorsi. Comunque sia, Pescara o Trapani saranno una sorpresa che ci troveremo insieme al Crotone in Serie A. Ma il Pescara è una sorpresa, diciamo, perché fino a un certo punto, perché esatto. Ancora traballa nella mente dei tifosi del Pescara, di Oddo, di tutti i giocatori, la dirigenza, la traversa, quel palo là, sì. La traversa di Bologna al 93esimo, laddove per il Trapani pesano nel senso positivo, questo sì, emotivamente, i 110 anni di storia senza aver mai toccato la Serie A direttamente, quindi sono sentimenti contrastanti che convergono in questi due affascinanti appuntamenti che credo saranno anche dal punto di vista calcistico straordinari, con due stadi esauriti, con una tensione, una partecipazione popolare incredibile. Credo che sia l'aspetto più bello dopo un anno comunque vissuto in maniera brillante, dove per 10 mesi ci si è date la caccia in classifica, nel senso buono del termine, e oggi arrivano in finale sicuramente le due squadre che l'hanno più meritato dal punto di vista anche del gioco dei playoff. Mi fate sentire quella, io approfitto di Abodi perché poi domani non è solo il giorno dell'Inter e dei cinesi, domani dovrebbe essere anche il giorno in cui l'Italia conoscerà il nome del prossimo CT. Io voglio approfittare di Abodi che lavora a stretto gomito, a stretto contatto con Tavecchio, per fargli sentire questa cosa che ha detto De Laurentiis a Mediaset Premium a proposito dell'Italia che non è un paese per vecchi e di Ventura che ha 70 anni. Voglio sapere cosa ne pensa. Questa limitazione che nella Serie A non dovrebbe esistere, nella Serie B e nella Serie C dovrebbe essere obbligatoria, cioè tutti oriundi della propria regione per dare forza anche ai vivai, no? Ma quando però si gioca in Serie A, allora libertà assoluta, perché noi non possiamo essere limitati, il Belgio non lo è, e noi, e non siamo in Europa. Tavecchio, non fare il fesso, dai retta a me, sii più democratico, più moderno soprattutto, dall'alto dei tuoi oltre over 70 anni, cerca di essere anche un po' ventenne, perché il calcio ne ha bisogno di rinnovamento. No, De Laurentiis ce l'aveva con le regole sui giovani, gli stranieri e tutte queste cose qui, e qualcuno ce l'ha invece sul fatto che Ventura è un quasi settantenne. Ma l'importante è prendersela sempre per qualcosa con qualcuno, quello è un po' il nostro sport preferito, lì siamo i campioni del mondo. Sport nazionale, già, bravo. Ma Ventura ti piace? È l'uomo giusto, al posto giusto, nel momento giusto soprattutto? Ma io intanto parto dal presupposto che l'età che conta è quella biologica e non quella anagrafica. Può sembrare banale, scontato, anche un po' demagogico, però esistono degli anziani trentenni e dei giovani settantenni. Quindi poi dipende da quello che uno dimostra nelle scelte, nei comportamenti, nei linguaggi. Quindi io mi fermo lì, nel senso che la responsabilità è giusto che la prenda il presidente federale, che tra l'altro si è in qualche maniera confrontato con ognuno di noi, ha chiesto almeno un pensiero. Io ritengo che a questo punto la decisione si avvicina ed è giusto che sia lui ad annunciarla, anche se sembra tutto per scontato, ma insomma, penso che dipenda da lui. Ritengo che il presidente De Laurentiis abbia teoricamente ragione, ma è altrettanto vero che il presidente federale le decisioni le prende collegialmente nell'ambito del Consiglio federale, dove siamo tutti rappresentati. Se dalla Lega di A arrivasse un messaggio di un certo tipo, perché qui il coraggio non può essere soltanto di una persona, perché una persona non decide, una persona può orientare, può proporre, ma poi votiamo noi e siamo noi che dobbiamo prenderci la responsabilità, e ogni Lega ce l'ha per il suo. Sì, insomma, alla fine va bene, va bene, alla maggioranza, e quindi è giusto che anche ad Abodi cosa può dire sul tecnico della nazionale maggiore, che non è una questione che lo riguarda strettamente. Poi no, beh, questo è vero fino a un certo punto, perché io sogno sempre che un giorno il tecnico della nazionale maggiore con maggiore assiduità venga, guardi le partite del nostro campionato e magari non tanto provocatoriamente, ma riconoscendo i valori, convochi anche qualcuno. Ma che sì, commissioner, ma viene fatto, però è normale in tutto il mondo che si guardino i grandi campionati internazionali. È chiaro, abbiamo parlato un sacco di La Padula, abbiamo parlato, ma non sarebbe la prima volta in cui ci sono giovani comunque che arrivano dalla Serie B, che vengono monitorati da un commissario tecnico, ma questo non credo dipenda dall'avventura. È iniziato Prandelli a farlo. No, forse prima. Beh, Colovati ci racconta come nell'anno della B del Milan lui facesse il doppio lavoro. Baresi pure. Dobbiamo fermarci perché c'è la pubblicità. Io ringrazio Andrea Bodi, grazie Presidente, buona partita voi, questa sera. Ore 20:30 Pescara-Trapani, finale d'andata per salire in Serie A. Ciao Piera, a domani. Ciao ragazzi, ciao. A domani dopo il GR delle 14, Pisa-Foggia 2-1, siamo più o meno alla mezz'ora, torniamo subito. Tutti convocati. Tutti convocati. Gente che si diverte a parlare di Diego Motta, a paragonarlo con altri grandi numeri 10 del passato, dovrebbe venire a fare due palleggi con Diego Motta o vederlo come tocca il pallone e pulirsi la bocca prima di parlare di un campione del genere che ha vinto tutto. Dobbiamo avere l'ansia o la paura di fallire, dobbiamo essere consapevoli che se siamo uniti possiamo fare un bel europeo. Dobbiamo essere assolutamente una macchina da guerra, dobbiamo avere i paraocchi e guardare avanti. Si dice insomma che è una delle nazionali più scarse che abbiamo avuto. Ma questo è qualcosa che viene detto fuori, noi comunque dobbiamo essere consapevoli della nostra forza. Se abbiamo questo spirito vuol dire che tutto è possibile, non penso che solo il talento, la classe possa far vincere, deve esserci tutto il resto. Giocatori che possono risolvere una partita ci sono, ma se poi dopo alla fine andremo male scriverete che saremo scarsi, che abbiamo sbagliato, ma è bello, a volte è anche più bello sorprendere. E poi dopo alla fine magari qualcuno si ricrede. Non so come la pensate voi, 800 24 00 24, ma ho l'impressione che si stia creando il clima da fortino intorno a Coverciano, intorno alla nazionale. Max Nerozzi, ciao Max. Ciao, buonasera a tutti. Sciacquatevi la bocca, venite qui a fare i palleggi con Tiago Motta, se criticate il 10. Ma l'abbiamo già visto. Voi pensate che noi siamo i più scarsi di sempre, potremmo sorprendervi, sarà ancora più bello, sottinteso, non detto, sarà ancora più bello poi sbattervi in faccia un buon europeo. Max, non lo so. Abbiamo una certa età, Massimiliano. Abbiamo una certa età, ma io direi che il più contento di questa situazione, al di là del poco talento che ha la nazionale, è Antonio Conte, che trova un po' nella giungla come fu il primo anno alla Juventus, come forse sarà il Chelsea la prossima stagione. Insomma, lui a partire da sfavorito penso che forse sia uno dei migliori, insomma, almeno ha dimostrato. Poi se potesse ridarebbe domani mattina la 10 a Tiago Motta e dopodomani gliela riderebbe ancora, no? Per sentire ancora il rumore dei nemici. Bravo. Di quelli devo che devo dirti, sto con Zenga, un paese che per due giorni si arroverà su 10 a Motta per me è un paese di matti. Tu dici ha dei problemi. Beh, no, anche perché in Camera Caritas lo dicono in pochi a Coverciano, ma vi faccio un sondaggio a voi due, a chi avreste sì, dato? Sì, ma di fatto. No, ma chi avreste dato? No, ma, no, ma non poi, ce n'era un altro. Ma poi l'altra domanda è chi se ne frega? Cioè, se non c'è Totti, non c'è un grande talento, non c'è quello che divide il pueblo come già è successo in varie edizioni precedenti, ed è per questo che dico che non siamo nati ieri, ma alla fine il Diez, chi se ne frega? Sì, ma però ci può stare il dibattito, insomma, se non discutiamo nemmeno, non ci appassioniamo certo su punto, questo, Giovanni, secondo me siamo morti dal punto di vista sportivo. Ma fino a un certo punto. Però è vero che non ce n'è un altro, e questo è purtroppo la conferma che questa è forse la peggior nazionale che va a una grande manifestazione negli ultimi 20 anni, però se crea quel clima lì da accerchiamento, da tutti contro uno, a Conte non può fare che piacere, e poi magari da domani cominceremo ad avere qualche risposta. Domani sera Verona, Italia-Finlandia, tu hai idea di che Italia prepara Conte? Cioè, se vedremo davvero l'Italia che poi debutta col Belgio, se invece ci sarà qualche giochino? Ma no, guarda, sugli ultimi test provendo, a parte che fra poco forse ci darà la formazione, e penso che lui collauderà una formazione che potrebbe avvicinarsi a quella del debutto col Belgio. Al di là di due esterni offensivi che ha sempre provato fino adesso, cioè Candreva a destra e Sharawi a sinistra, mi sarebbe molto strano rivedere agli europei, perché lui, come sapete, di solito in questo formato ha sempre alternato da una parte un difensore e dall'altra uno che spinge di più. Questo sarei un po' sorpreso, però sta facendo miracoli con El Shaarawy, eh. Secondo me sarà uno dei miracoli di Conte questo. Cioè, potrebbe essere un El Shaarawy capace di fare, adesso parlo come quelli che parlano bene, entrambi le fasi, e quindi noi continuiamo a pensare del Shaarawy come un laterale d'attacco, invece potremmo scoprire, attenzione, all'europeo un laterale non totale. Non è questione di fasi o di tattica, ne abbiamo parlato per tutta la settimana e ne parleremo nel corso di tutti gli europei. In manifestazioni così brevi, che bruciano tutto così in fretta, è anche questione, banalmente, soprattutto nel calcio, di magia. E chi arriva in questa nazionale con una carica di magia paragonabile a quella di El Shaarawy? Non tantissimi, perché ha fatto una grande seconda parte di stagione con la Roma, perché alla fine si è tolto un sacco di sassetti dalle scarpe, e perché comunque è un giocatore di talento e nell'Italia non ce ne sono tantissimi. Max. Sottoscrivo e dico anche che in un torneo così forse conta più la fame che la fama, e noi dovremmo avere. Bravissimo, bravissimo, bravissimo. Comunque sarà 3-5-2. Tu hai l'impressione che le gerarchie in attacco siano cambiate? Perderò la scommessa, ma dico di sì, non solo per come ha giocato l'Italia con la primavera dell'Empoli, ma perché Zaza Immobile danno quella sensazione di vitalità che vedemmo all'inizio dell'avventura di Conte. Insomma, noi avevamo fatto, siamo divertiti a fare un po' i giochini in questi giorni a Coverciano anche sulle semplici cifre. Insomma, andate a rivedere il corso degli ultimi sei mesi di Eder e Pelé, non è esattamente confortante, dopodiché si potranno fare mille altre scelte, però insomma sembrano più vivi a vederli in allenamento. Poi Conte, quello che al posto della situazione, questa l'impressione che stiano molto cambiando le gerarchie, e forse l'unico vero dibattito non sul 10 ma sul ruolo sarà tra Thiago Motta e Daniele. Bravissimo. Tutta la vita Zaza Immobile con El Shaarawy esterno, questa è la mia idea. Zaza è quello che ha quella forma di follia che in un europeo serve, anche se è stato per tutta la stagione una riserva della Juventus, per inciso la riserva che ha fatto i gol più, forse tra i più importanti della stagione bianconera. Immobile perché comunque è uno funzionale al gioco di Zaza, e Shaarawy perché è uno che ha quella scintilla di cui parlavamo. Sì, sarebbe sorprendente vedere fuori Pelé per tutto quello che ha rappresentato in questi due anni. E anche, sai, anche perché in fondo lì, è stato quello che, ha portato che lì, poi va bene, ha segnato nell'ultima amichevole, per carità. Però evidentemente può essere che con Belgio, un Belgio che ha qualche problema, può perché non abbiamo problemi solo noi, tattico, Giovanni. Arrivi in Italia diversa tattico. Con Zaza Immobile. Prima di chiudere con Max Nerozzi, invece, sulla questione Ventura, ci siamo domani? Sì, guarda, dovrebbe essere domani al più tardi 7 l'annuncio del nuovo commissario tecnico. Che è Ventura, con buona pace anche di quelli che non sono d'accordo. Io su questo credo che Tavecchio abbia tenuto dritta la barra. Sì, è vero, hai ragione. A differenza insomma, di tante persone che arrivavano da fuori, non solo. Grazie Max. A ciao, voi, Max. Ciao, a presto. Ciao. Grazie Max Nerozzi, inviato della stampa a Coverciano e al seguito della nazionale. 800 24 00 24, Alberto dalla provincia di Brescia. Alberto, buonasera a tutti. Ciao, buonasera. Prima di tutto vorrei congratularmi con Pardo per le sue dirette su Facebook, che sono sempre il top del top. Va bene, giriamo il complimento su Facebook. Prego, prego. Sì, seconda cosa, la dichiarazione di De Rossi mi sembra imbarazzante, in quanto come si fa a paragonare Thiago Motta a Baggio, Del Piero, Totti? Mi sembra di... Ma non mi pare di aver sentito quel tipo di paragone, semplicemente sì, De Rossi, però, da leader, sì, ha difeso un suo compagno di squadra che era stato grosso modo insultato tra virgolette sportivamente, perché gli era stata affidata una maglia molto pesante, quindi io non leggo un paragone, leggo piuttosto una dichiarazione di leadership da parte di un De Rossi, che è un giocatore comunque imprescindibile di questa nazionale. Dica, Alberto. Mi sembra di esagerare nel parlare di sciacquarsi la bocca per Thiago Motta, cioè mi sembra di confondere la merda col cioccolato. Sì, ma va bene, ma queste sono dichiarazioni, comunque, ripeto, di un giocatore che ha un'enorme quantità di leadership come Daniele De Rossi. Poi possiamo discutere sulle parole usate, possiamo discutere sulle qualità di Thiago Motta. Nessuno dice che Thiago Motta vale Totti, Del Piero o tutti quelli che hanno indossato la maglia numero 10 della nazionale italiana, però De Rossi ha parlato da leader e questo mi piace. Ma poi di sicuro Thiago Motta è, insieme a De Rossi, Buffone e a pochi altri, l'unico che in quel gruppo ha vissuto esperienze di un certo livello internazionale. Giuseppe da Grosseto, Giuseppe. Buonasera a tutti e grazie per la convocazione. Eccoci. Tre domande velocissime, allora. Vai, intanto ha pareggiato il Foggia contro il Pisa. Pisa-Foggia 2-2. Prego. Aia. Chi prende l'Inter, dove mi porti, poi di soprattutto perché, te la ricordi? Sì, Ligabue. Prego, Giuseppe, tre domande. Tre domande per te. Una volevo sapere da voi, quella riguardante il Milan. Sì. Dato che era il nostro presidente, questo si sapeva già da tempo, perché tanto non avrebbe mai lasciato. Rimanendo il nostro presidente, come sarà il mercato del Milan? Cioè dovremmo guardare dagli svincolati, dovremmo vendere per poi ricomprare? L'ha detto Berlusconi, sarà, io qui mi sarà arrendo, il Milan degli italiani. Mi arrendo totalmente, lascio la palla al mio compagno di banco perché non so rispondere. E poi le altre due, così vi lascio la degna nera. Sì. E poi le altre due. Ventura, ok, d'accordo, benissimo. Perché non De Biasi, che ha portato l'Albania, ripeto, l'Albania, non la Germania o il Brasile, ha portato l'Albania a una finale europea, e anche questo va bene. E poi terza cosa e ultima, io penso, credo, perché non sia un europeo disastroso, che almeno come terza ripescata, come terza il turno si passa, poi dopo cosa succederà non lo so, però penso che meno come terzi ripescati, io credo, credo. Sì, ma è quello che ci auguriamo tutti. Tra l'altro, ripeto, il Belgio ha problemi in difesa, la Svezia, vista anche in queste amichevoli, è quasi solo Ibrahimovic, e con tutto il rispetto per l'Irlanda del Nord, dovrebbe essere un ostacolo saltabile anche da questa nazionale. Su De Biasi è stato in corsa fino all'ultimo, con Ventura, era nella rosa ristretta di due o tre nomi, però si è preferito un allenatore, un selezionatore che provasse a creare un'Italia un po' diversa anche dal punto di vista del gioco, più simile a quella di Conte, perché poi non dimentichiamoci che a settembre noi dobbiamo cominciare subito a fare risultato per non compromettere la corsa verso il Mondiale del 2018. Sul Milan, se resta Berlusconi, il Milan, ha detto Berlusconi, sarà un Milan di giovani, di italiani, con Brocchi in panchina. Se resta Berlusconi, questo è, c'è poco da scoprire, soldi. E con pochi soldi. Pochi traffico. Quattrini. È giusto essere consapevoli che forse non siamo i favoriti, no, che sicuramente non siamo i favoriti, ma è altrettanto giusto essere consapevoli che potenzialmente possiamo battere ogni squadra contro la quale giochiamo, no? Tutti convocati. Tutti convocati. Ciao a tutti, ciao Ciccio, ciao Genta, sì, ciao Capuano. Presidente, buonasera anche a lei. Oggi è la domenica dei presidenti, è presidente Toir, presidente Renzi. Ho appena salutato a Coverciano i nostri giocatori, sì, motivati al 100%, pronti a vincere, e ho spiegato ai CT le mosse vincenti per vincere in Francia al 100%. Sì, immagino che Conte sarà stato contento, no, di farsi dettare la formazione dal presidente Renzi. Certo. Conoscendolo, non ha fatto questo, vero presidente? Assolutamente. Non è come Berlusconi, di invidia di Berlusconi, ma ci mancherebbe altro. Voi mi conoscete, sono una persona che ama la libertà. Innanzitutto ho detto ai CT le riforme, piaccia o non piaccia, le riforme? Facciamo, è naturale. Prima cosa, sì. Votare sì al referendum. Ma non si può, non si può, le urne aperte, lei ci dica, insomma, non ha dato la formazione, quindi stiamo tranquilli. Assolutamente, non è che domani Conte, poi ho promesso ai calciatori azzurri per ogni vittoria un premio di 80 euro. 80 euro per ogni vittoria. Vai, questa mi sembra di averla già sentita. Li caccia lei? No. Cioè, ripaga lui di tasca sua? Immagino come fossero contenti. Sì, 80 euro, sì. Gente, sei sempre molto spiritoso, Ciccio, però anche a noi. Facciamo così, per ogni vittoria, visto che seguiremo l'europeo ogni giorno in tutte le sue forme, dettagli e microscopici contenuti, 80 euro anche a me, Capuano. Sì, certo, per ogni vittoria. Va bene, si può anche fare, per Claudio Schiattone. Ok, va bene. Per la Affare Fiatone fatto. Ce ne stanno sicuramente. Sicuramente per la Boschi e per la Fiatone non ci piove. Così non va bene. Allora, c'è stato. Parliamo seriamente, gente. Sì, parliamo seriamente, c'è però stato, quando mai l'abbiamo fatto? Ci deve dire che cosa ha fatto. Allora, e adesso glielo spiego, Capuano. Sì. C'è stato un accordo ogni giorno. Prima della partita arriverà a Conte un messaggino con la formazione. Ma non è e successivamente con gli eventuali cambi da fare. Ma c'è una cosa fondamentale. Va bene? Sì. Federico, Ciccio, Bernardeschi deve giocare titolare inamovibile. Ma questo l'avevamo capito, che gira e rigira. Se andava non su quel faccia, non faccia. Presidente, la santiamo. E poi arriva Montella. No, le dico una cosa. Magari Capuano, gioca anche Montella. Arrivederci, presidente. No, le devo dire una cosa. No, santiamo. Cosa deve dire? Perché presidente? No, l'abbiamo salutato. Hai sfumato. Andiamo in Sud America. Hai sfumato il Premier. Ma dice delle cose che non. Domani verrà il licenziato. La formazione a Conte. Ma perché? Federico Ciccio Bernardeschi. Becky G. Let's set the world on fire. Copa America. Siamo in Sud America, dove questa notte il Brasile ha esordito contro l'Ecuador 0-0, quindi non Neymar no party, uno dei peggiori Brasile degli ultimi anni. Saluto Paolo Ciarravano, ciao Paolo. Ciao Paolo. Buonasera a voi. Questa notte Giamaica-Venezuela alle 23, Messico-Uruguay alle 2, quindi scopriremo l'Uruguay dopo aver visto anche che cosa può fare la Colombia, poi vedremo l'Argentina, il Cile. Però a me questo Brasile mette davvero tristezza. Insomma, ne abbiamo parlato anche venerdì, cioè questo Brasile è veramente low cost, cioè se chi fa gol nel Brasile sembra una barzelletta, perché considerando la storia del calcio, domandarsi nel 2016 alla Coppa America chi fa gol nel Brasile sembra quasi una barzelletta, invece è realtà. Paolo. È assolutamente realtà ed è il grande paradosso di questo Brasile. Posso dirvi che sommando tutti i gol segnati in nazionale dai convocati, dai presenti in questo gruppo voluto da Dunga, non si arriva ai gol segnati da Neymar, per esempio. Posso dirvi che Dunga aveva tanta pressione addosso prima dell'inizio di questa Coppa America e ne ha ovviamente ancora di più dopo questa partenza, anche se dobbiamo tutto sommato renderci conto, proprio perché la realtà è quella che più o meno tratteggiavate voi, che non è più il Brasile di una volta e che non dico sia quasi un punto d'oro quello contro l'Ecuador, però considerando che l'Ecuador è la squadra in testa al girone sudamericano di qualificazione ai prossimi mondiali, considerati i problemi del Brasile, tutto sommato aver portato a casa lo 0-0, considerato anche che un gol hai salvato la pelle, tu dici il Brasile ha salvato la pelle. Ha salvato la pelle e, come dire, può andare avanti con gli esperimenti, pensare di battere ragionevolmente Haiti, anche se Haiti ha retto per quasi tutta la partita contro il Perù ieri notte, e poi giocarsi tutto all'ultima partita. Di certo è un Brasile che ha due punti interrogativi. Innanzitutto ci si chiede in Brasile, in parte me lo chiedo modestamente anch'io, il perché di alcune esclusioni. Alcune posso capirle, francamente, come generazionali, magari soprattutto in difesa, forse Thiago Silva magari è il passato nel Brasile, anche se ci avrei rinunciato francamente a fatica, però insomma mancano giocatori che quest'anno hanno fatto molto bene, Fernandinho direi, soprattutto Firmino, che mi sembrava essere comunque considerato da Dunga, che l'aveva portato alla precedente Coppa America dell'anno scorso. Alla luce anche di un Brasile con pochi giocatori di qualità in attacco, non portarlo mi ha sembrato difficilmente spiegabile, difficilmente comprensibile. Sembra una Coppa America disegnata per l'Argentina, dopo i primi exit poll, poi la vedremo l'Argentina, però se il Brasile è questo, vedremo anche il Cile se ripeterà la favola dell'anno scorso, però... Allora, gli exit poll, hai detto bene, dicono questo, anche prima di andare alle urne, francamente... guardando le rose, veniva da dire Argentina. Altre squadre hanno steccato, ha steccato in parte, come dicevamo, il Brasile. Secondo me hanno steccato anche gli Stati Uniti, perché al di là del fatto che la Colombia sicuramente è una squadra molto forte, ci si aspettava di più dalla squadra di Klinsmann, ma oggettivamente, al di là di quelli che sono i problemi delle altre, lo strapotere tecnico dell'Argentina, la cifra tecnica dell'Argentina sembra assolutamente imparagonabile a qualsiasi altra squadra. Il problema dell'Argentina è che in campo avevano solo 11, e che quindi qualcuno resta fuori, potrebbe restare fuori uno che da noi ha incantato quest'anno come Higuaín, quello spiega tutto, però insomma mi sembra sinceramente la squadra più forte. Certamente, grazie Paolo Ciaravano. Tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Beh, insomma, c'è di mezzo una competizione. C'è di mezzo Messi che ha mai vinto niente, dai. Sì, con quella prima, maglia. Prima o poi vincerà, ragazzi, anche lui qualcosa con la maglia dell'Argentina. Grazie Paolo. Ciao. Grazie Paolo Ciaravano, ripetiamo, oggi alle 23 Giamaica, Venezuela e alle 2 Messico, Uruguay. Noi ci fermiamo qui, io mi scuso con Giancarlo da Parma, lo recuperiamo domani dopo il GR delle 14. Io ringrazio Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Roberta Frisani, Andrea Roccabella in regia. Noi torniamo domenica alle 17. Ciao.